GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il debutto del nuovo governo, ora si attende la squadra dei viceministri e dei sottosegretari. A Nord-Est si riprende il lavoro di squadra, oggi a Pordenone, confronto Fedrigazzai, organizzato dalla CISL. Il lavoro che c'è ma non attrae, ancora senza risposta in montagna, l'offerta per 40 posti di addetto agli impianti di risalita. Investito a Fiume Veneto, gravissimo, un 15enne, Monfalcone, risolto grazie all'intervento tempestivo, un principio di incendio al centro commerciale Belfort. Accoglienza, centinaia di migranti esclusi per mancanza di posti a Udine, l'ex caserma Cavarzerani ospita il doppio di persone rispetto alla capienza. Vaillant verso il 60° anniversario, una lunga vigilia e lo sforzo per trasmettere ai giovani l'importanza della memoria. L'anno europeo dei giovani a Udine, un evento organizzato dall'università per un futuro più verde, più digitale e più inclusivo. Calcio, domenica nera, Udinese battuta in casa dal Torino, in C sconfitta Pordenone, Triestina. Lunedì 24 ottobre, le 7:19 minuti, in studio Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Uno sguardo alla situazione del tempo sul Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cielo da nuvoloso a coperto. Queste le temperature registrate alle ore 6. A Trieste 19 gradi, il mare è ancora caldo, temperatura di 20 gradi e 5 decimi. A Udine e a Pordenone 17 gradi e mezzo, a Gorizia 16 e mezzo. Nell'area montana a Tolmezzo 16 gradi, a Tarvisio 12,5 decimi, a Sappada 10, sul Piancavallo 11,5 decimi, a Forni di Sopra 12,5, sul Lussari e sullo Zoncolanci sono 8,5 gradi, e tornando sulla costa Lignano 20, a Grado 18, temperatura del mare 19 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: nuvolosità variabile con più sole sulla costa e più nubi sulle prealpi. Possibili foschie dal pomeriggio sera, aumento della nuvolosità con piogge sparse, deboli o moderate su zona montana e alta pianura. Primo consiglio dei ministri per il governo Meloni. Ieri, dopo il passaggio delle consegne a Palazzo Chigi, nell'esecutivo ha debuttato il pordenonese Luca Ciriani. E oggi si attendono le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, che definiranno i tempi del dibattito parlamentare sulla fiducia. Domattina si comincerà comunque alla Camera. E dentro la settimana la Premier si prefigge di completare la squadra di governo con viceministri e sottosegretari. Una trentina le cariche da assegnare. Si torna a parlare del Nord-Est come locomotiva del paese in un incontro organizzato dalla CISL, a cui parteciperanno il segretario nazionale Luigi Sbarra e i vertici regionali del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e a Pordenone. Si farà il punto nel pomeriggio su tendenze, transizioni e attrattività in un progetto di sviluppo comune. Tra gli ospiti i presidenti delle due regioni, Fedrigazzai. L'appuntamento è alle 17 all'Auditorium Concordia. Oltre agli interventi di Alberto Monticco, Gianfranco Refosco e Sbarra per la CISL, sono attesi quelli di Luca Paolazzi e Gianluca Toschi della Fondazione Nord-Est, chiamati a individuare il percorso che le due regioni potranno condividere. I temi sul tavolo saranno quelli centrali per il sindacato: tendenze e nuove istanze del mercato del lavoro, formazione, necessità di un rafforzamento delle competenze e del rapporto con il mondo dell'istruzione. Intanto c'è un settore nel quale non si riesce a fare sistema, quello del turismo montano e degli impianti di risalita. Le regioni del Nord-Est faticano a trovare gli addetti per l'avvio della prossima stagione, ma è la nostra a incontrare le maggiori difficoltà. Promoturismo FVG finora ha trovato solo un terzo delle persone che dovrebbe assumere. Promoturismo FVG fa fatica a trovare lavoratori stagionali da impiegare il prossimo inverno sugli impianti sciistici del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di operatori di impianti a fune e con mezzi battipista, addetti alle casse e alla sicurezza pista. L'agenzia regionale, che ogni stagione invernale ne assume 150, ne recluta metà tra i lavoratori degli anni precedenti, metà si tratta di nuove maestranze. Ed è qui che nascono i problemi, con le domande di assunzione che coprono a malapena un terzo dei posti vacanti. I contratti partono dal 1° dicembre e terminano a fine maggio. La retribuzione mensile varia dai 1.300 ai 1.800 euro. C'è la garanzia di un giorno di riposo a settimana e c'è la possibilità di essere stabilizzati a seconda delle disponibilità dell'agenzia regionale. Solitamente coloro che lavorano sugli impianti sciistici provengono dalle aree montane della nostra regione. con l'eccezione di Piancavallo, che accoglie anche personale che arriva dalla Sicilia. Difficile capire perché, soprattutto tra i giovani, non ci sia un grande interesse ad intraprendere un'attività che nel futuro potrebbe garantire nuovi sbocchi lavorativi anche fuori regione. Jacopo Mestroni, direttore operativo di Promoturismo FVG. I mercati poi, soprattutto dell'Alto Adige e dell'Austria, richiedono i nostri migliori professionisti, per cui il nostro sicuramente è un trampolino di lancio anche verso l'estero. Tolmezzo, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: intorno alle 20 di ieri a Fiume Veneto, un giovane 15enne è stato investito mentre attraversava in bicicletta via Trento e nell'urto è stato sbalzato per alcuni metri, riportando ferite gravissime. Tempestivo l'intervento del 118, allertato dal guidatore dell'auto, che secondo le prime ricostruzioni non è riuscito a scorgere in tempo il ragazzo, forse comparso all'improvviso per attraversare velocemente la strada. L'incidente ha comportato la chiusura della strada per un paio d'ore. Si è risolto rapidamente con l'intervento dei vigili del fuoco. Il principio d'incendio di ieri pomeriggio a Monfalcone, in un grande negozio di scarpe al centro commerciale Belforte, sarebbe stato un guasto a un corpo illuminante a innescare le fiamme, tenute inizialmente sotto controllo con gli estintori dagli addetti del negozio. Una ordinata evacuazione ha consentito poi di evitare conseguenze, considerato che tutto si è svolto nel momento di massimo afflusso nel centro commerciale. Molto fumo, ma danni contenuti e nessuna conseguenza per le persone. Ancora problematica la situazione dei centri per l'accoglienza migranti in regione. A Udine e Trieste le strutture registrano molti più ospiti di quanto sarebbe consentito e sono sempre più numerosi i richiedenti asilo che non trovano sistemazione. Qualche sera fa un gruppo di migranti si è presentato davanti all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Non è la prima volta che succede. Speravano di essere accolti lì, ma da circa un mese gli ingressi sono sospesi per decisione del prefetto. La struttura pensata per ospitare 300 persone aveva raggiunto 900 presenze, ridotte oggi a 600. La situazione di Udine è diversa da quella di Trieste, dove sono circa in 200 i migranti che dormono in strada o al silos per mancanza di posti letto. Nel capoluogo friulano questi casi sono sporadici e sono stati al massimo qualche unità nello stesso momento, dice Paolo Atracogna dell'associazione umanitaria Ospiti in Arrivo, composta da volontari che assistono gli stranieri appena giunti sul territorio. Giovanni Tonutti di Oikos, entità che opera nel settore della gestione dei migranti, ritiene che si debba tornare all'accoglienza diffusa perché le condizioni di una grande struttura come la Cavarzerani, a suo dire, portano alla devianza. Proprio tra l'ex caserma e Borgo Stazione faranno la spola i militari dell'operazione Strade Sicure, che dovrebbero arrivare a Udine prossimamente come richiesto dal Comune. I tempi del loro dispiegamento saranno discussi martedì nella nuova riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Lo stesso comitato che ha già operato una stretta dei controlli. Sabato un uomo di cittadinanza afghana è stato arrestato per il possesso di quasi un etto di hashish nel sottopasso della stazione ferroviaria. Lo spaccio nella zona è conclamato, affermano residenti e commercianti. Siccome c'è anche l'acquirente, quindi c'è anche mercato. Noi vediamo qua le macchine che si fermano, la madre e la mamma aspetta in macchina e il figlio va a prendere la roba, e sono situazioni un po' difficili, no? Avete visto anche questo? Sì, ma si vede tutto, ma lo vediamo tutti, e chi non vuol vedere non vede. Proprio la lotta per la conquista della piazza sembra all'origine delle violenze dei giorni scorsi tra gruppi di venditori di droga. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sulla situazione a Trieste è intervenuto l'ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, con il presidente Gianfranco Schiavone. Se continua questa situazione a Trieste, ha detto Schiavone, ci rivolgeremo direttamente al Ministero dell'Interno perché l'accoglienza è un obbligo di legge, non è una gentilezza o una concessione. Da quest'estate a Trieste, ha continuato Schiavone, è in corso una violazione. Il nuovo governo deve quindi fare in modo che si smetta di violare le norme a Nord-Est e deve prendere sul serio l'accoglienza. L'ICS è l'associazione che coordina il sistema di accoglienza a Trieste. La denuncia di Schiavone parte da una stima. Da metà luglio, ha spiegato Schiavone, le quote di trasferimento dei richiedenti asilo verso altre regioni sono diminuite di più del 50%. Di conseguenza, ha aggiunto, i circa 1.200 posti a disposizione per chi arriva in città non sono risultati sufficienti. Alcune persone hanno cercato ripari di fortuna, altre hanno dormito all'addiaccio. Ora le elezioni presidenziali in Slovenia vanno al ballottaggio del 13 novembre. Il 46enne candidato conservatore Angel Logar, che ha ottenuto il 34% delle preferenze, e la 54enne indipendente Natasha Pirc-Musar con il 27%. Il socialdemocratico Milan Brglez, 55 anni, che era candidato della coalizione governativa, si è fermato al 15%. Erano in corsa altri 4 candidati. Il dato sull'affluenza supera il 50%. Logar, ex ministro degli esteri del governo Janša, si è detto molto soddisfatto del risultato e pronto a un dibattito sui contenuti in vista del ballottaggio. Pirc-Musar, avvocata impegnata nella difesa dei diritti umani, ha dichiarato che non arretrerà di un millimetro sui valori che rappresenta e che ha portato avanti durante la campagna elettorale. Il nuovo presidente prenderà il posto di Borut Pahor, che è rimasto in carica per 2 mandati. Tra un anno ne saranno passati 60 dal disastro del Vajont a Longarone, che fu praticamente rasa al suolo dall'ondata che scavalcò la diga dopo la frana del Monte Toc. La presentazione del logo per l'anniversario ha dato l'avvio a questa lunga vigilia, nella quale non mancano le riflessioni su come trasmettere ai giovani il significato della memoria. Il servizio è di Antonello Profita, della redazione della TGR di Venezia. Celebrato da pochi giorni il 59esimo anniversario, si pensa già al prossimo, che non vuole essere solo di doloroso ricordo delle quasi 2000 vittime, ma un rinnovato monito perché sciagure annunciate, quindi più che evitabili come quella, non abbiano più a ripetersi. Quello che più spaventa e demoralizza al tempo stesso i pochi superstiti, come il sindaco di Vajont, Virgilio Barzan, è che non si riesca a trasmettere ai giovani il significato della memoria. Come si può noi sindaci trasmettere queste cose che non riusciamo, e non riesco neanche la mia famiglia quasi a trasmetterle? A Longarone, quasi completamente rasa al suolo da quella tragica ondata, la presentazione del logo per il 60esimo ha affidato, come 10 anni fa, 2 grafici di Mondolfo, nelle Marche, Lorenzo Letizzi e Mattia Fuligni. Quest'anno abbiamo fatto il restyle del 50esimo e abbiamo cercato di creare un logo semplice, che duri nel tempo, slanciato, che guardi al futuro. Un futuro di nuove sfide, ma che non sfidi la natura. Il punto sulla pandemia da coronavirus in regione: i contagi sono in ulteriore diminuzione secondo il bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore se ne contano 568, dunque quasi 200 in meno rispetto a una settimana prima, su circa 3.600 tamponi. Il tasso di positività è poco sopra il 15,5%. Quanto ai ricoveri, ci sono 8 persone in terapia intensiva, dunque 2 in più rispetto al giorno precedente, e 190 positivi negli altri reparti, con un aumento di 4 unità. Gettare le basi delle raccomandazioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile inclusi nell'agenda delle Nazioni Unite 2030 è lo scopo della riunione in calendario oggi e domani a Udine, a Palazzo del Torso. Una ventina gli esperti internazionali che si confronteranno nell'individuazione di azioni che puntino a un futuro sostenibile, sicuro e resiliente. Tra loro si contano docenti di cattedre UNESCO di vari paesi dell'area centroeuropea, in varie agenzie delle Nazioni Unite, nella protezione civile nazionale e regionale, oltre a ricercatori dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Si rivolge sia a studenti universitari sia delle scuole superiori, come anche ai cittadini. L'evento è intitolato L'anno europeo dei giovani, un futuro più verde, più digitale e più inclusivo, organizzato dal Centro di Documentazione Europea Guido Comessatti. L'iniziativa si terrà a Udine nel polo universitario di via Tomadini dalle 9. A Claudio Cressati, responsabile del Centro Comessatti, abbiamo chiesto una presentazione degli spunti di approfondimento in scaletta. Avremo almeno 300 studenti presenti per declinare l'impegno dei giovani su questi problemi: inclusione, sostenibilità e giustizia sociale e sfide ambientali, in una prospettiva proattiva, cioè quello che la comunità universitaria, gli studenti, i docenti fanno su queste problematiche e quello che possono fare ulteriormente assieme alla comunità e a tutti i giovani del territorio. Perciò inclusione soprattutto in riferimento al Gender Equality Plan dell'università, in modo da dare a tutti le stesse chance, le stesse opportunità. Il tema dei rifiuti zero, cioè come diminuire effettivamente in modo sostanziale e sostenibile la produzione dei rifiuti come primo passo per un mondo effettivamente più green, e poi come coniugare sostenibilità e digitalizzazione, ovvero sia come fare del nostro territorio un territorio che si fonda sull'innovazione, e un'innovazione però che è collegata ai valori fondamentali dell'umanesimo, che non deve essere vista come qualcosa di staccato, di futuribile, di lasciato ai tecnici, ma che deve essere un patrimonio di tutti. Questa mattina a Monfalcone sarà inaugurato il Centro Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologia dell'Età Evolutiva di Asugi, cerimonia nell'auditorium dell'ospedale San Polo alle 10. Circa 220.000 euro la cifra raccolta dall'associazione Dinamici e dedicata alla cura dei malati per l'acquisto di arredi e l'allestimento per il nuovo reparto. Al momento si contano circa 1.300 pazienti colpiti da disturbi cognitivi dall'ospedale. Nella nuova struttura, che conta una ventina di stanze con la sala autismo, saranno attivi 22 operatori, previste anche 3 sale d'accoglienza organizzate per fasce d'età e un reparto per i più giovani. È intitolato Società di Navigazione Tricovice-Co Trieste, il libro scritto da Sergio Flegar, che ripercorre la vicenda della società giuliana di navi e rimorchiatori e della famiglia che l'aveva fondata. Flegar, che nell'azienda ricoprì l'incarico di direttore amministrativo, presenterà il libro a Trieste al Circolo della Stampa di Corso Italia alle 18. L'abbiamo intervistato per chiedergli una sintesi degli avvenimenti aziendali dopo un centinaio di anni dalla fondazione, a inizio dunque anni 90, quando un cambio nella dirigenza avviò l'ingresso nell'attività di figure apicali che gestivano nel resto d'Italia anche società finanziarie già indebitate. A un certo punto tutte queste società finanziarie erano molto indebitate. Noi avevamo finanziate, noi le avevamo garantito le banche e quindi si erano finanziati tramite le nostre garanzie. A un certo punto queste società erano nel marasma più completo e in quel momento il nostro amministratore delegato ha pensato bene di scaricarcele a Trieste. Il consiglio di amministrazione ha deciso di acquisirla e quindi ci siamo trovati improvvisamente tutte queste società indebitate fino al collo e non siamo riusciti a gestire il tutto, perché in breve tempo, nel giro di 2 o 3 anni, abbiamo avuto un colossale buco di bilancio perché abbiamo dovuto sostenere tutte queste perdite di queste società di cui noi non sapevamo praticamente nulla. Noi sapevamo soltanto quello che ci veniva detto, ci dicevano che le società lavoravano, che si bisognava indebitarsi per sostenerle, eccetera, e più avanti che si andava, più queste società diciamo ci hanno affossato. Alla fine ci siamo trovati nel 92 con 118 società controllate e ovviamente avevamo un bel da fare per tenere a posto i conti, eccetera. Eravamo una società quotata in borsa, ci siamo trovati falliti senza colpa. Avevamo un patrimonio di 47 miliardi e l'indebitamento era sui 600 miliardi. Ci avviciniamo alla giornata della lettura che sarà celebrata venerdì 28 ottobre. Tra le aziende che la promuovono c'è l'APT di Gorizia, che espone le locandine sui bus e alle fermate. Da oggi l'azienda di trasporti organizza una caccia alla poesia. Fino al 2 novembre gli utenti, ma anche gli altri cittadini, potranno cercare e trovare i tanti diversi testi nascosti. Tra gli altri libri di cui si parla oggi c'è Il dirottamento di Ronchi di Marco Barone. Al centro dell'incontro di stasera a Ronchi, in biblioteca comunale, per il ciclo Noè e la storia, alle 18.30, l'autore ne parlerà con Luca Perrino. Il dirottamento in questione è quello dell'ottobre del 1972, 50 anni fa. L'autore, estremista di destra Ivano Boccaccio, venne ucciso dalle forze dell'ordine. Era l'uomo che aveva rubato la 500 usata per la strage di Peteano. Oggi le nuvole regalano una tregua, il titolo del libro di Andrea Comisso che viene presentato a Trieste al Circolo Allianz alle 18. L'autore dialogherà con Roberto Giacomini, letture di Sara Alzetta. A Trieste, a Caffè San Marco alle 18, viene presentato il volume Trieste ti voglio bene assai di Carmine Caprioli, che dialogherà con Andrea Scarabat. Caprioli è di origine napoletana ma a Trieste dagli anni 60, è stato carabiniere, operaio, agente assicurativo e imprenditore tessile. Il libro, edito da luglio, racconta le sue vicende di triestino adottivo. Oltre 400 persone si sono ritrovate ieri pomeriggio al cimitero di Tualis di Comeglians, dove è sepolto Don Pierluigi di Piazza, per ricordare il fondatore del centro Balducci di Zugliano a 5 mesi dalla scomparsa. Oltre ai familiari, tantissima gente della sua carne ha voluto rendergli omaggio anche con la lettura di alcune pagine dei suoi libri. Passiamo alla musica, torna a Trieste il padrone della voce. E lo spettacolo con il quale Filippo Destrieri, che per 20 anni collaborò con Franco Battiato e ne fu il tastierista, racconta per musica e immagini la storia del periodo più sperimentale del maestro siciliano e le premesse di un album straordinario come La voce del padrone, che era uscito nel 1981. Destrieri sarà in sala Luttazzi alle 20:30. L'evento è promosso dall'Associazione Musica Libera. La scorsa estate era andato in scena a San Giusto nell'ambito del Rock Summer Festival. Video d'epoca e celebri brani rielaborati come Una cellula, Energia, Aria di rivoluzione, Anafase che stiamo ascoltando e tanti altri compongono il ritratto di un grande artista e di riflesso quello del progressive italiano. La pagina dello sport, iniziamo dal calcio. Udinese sconfitta sul proprio campo, è la prima volta in questo campionato, ma il 2-1 incassato dal Torino con il gol di Deulofeu tra le due reti granata di Aina e Pellegri è la seconda battuta d'arresto in pochi giorni dopo quella in Coppa Italia con il Monza. Stavolta l'Udinese crea davvero tantissimo e nel finale non riesce a concretizzare le ottime occasioni per il pari. L'allenatore Sottil non è preoccupato e dice: se c'è una squadra che ha lottato per vincere, quella è la nostra. Torino non l'ho mai visto, non l'ho visto neanche il secondo tempo, e l'ho visto purtroppo quando ci hanno punito sul 2-1, però noi abbiamo la palla di Gerri, abbiamo la palla di Beto, soprattutto quella di Deulofeu con una bellissima azione. Calcio è fatto di episodi, quindi sinceramente non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, perché fino a questa partita stiamo facendo cose straordinarie. Purtroppo chi vince ha ragione, bisogna mettere la palla dentro, però una battuta d'arresto che non deve assolutamente buttarci giù o fare quale tipo di processo, andare a fracassarci la testa, perché la partita era in bilico, un'occasione loro sono andati avanti, noi la potevamo riprendere ancora con Beto, hanno vinto loro, lo accettiamo e prendiamo atto per migliorarci ancora. In Serie C è stato un turno da dimenticare per Pordenone e Triestina, entrambe sconfitte. Situazione delicatissima per gli alabardati, battuti 1-0 sul campo della Juventus Under 23. È il quarto stop consecutivo e domenica a Rocco arriva il Mantova, quasi uno scontro salvezza. Con lo stesso punteggio di 1-0 i neroverdi hanno perso in casa contro la Feralpi Salò. Ora sono quarti nella classifica guidata da Lecco, prossimo turno in casa della Pergolettese. Si scrive Pizzignacco, si legge Neuer, il Pordenone sbatte contro il muro costruito dal portiere della Feralpi Salò che pare quello del Bayern Monaco e perde 1-0 in casa Lignano, una partita che avrebbe potuto invece essere una goleada. Tante le occasioni per i neroverdi, che però di fronte trovano il numero 1 Gardesano in giornata di grazia. Gli uomini di Carlo dominano e tirano a ripetizione, ci prova Torrasi da fuori, imitato al 12° da un sinistro potente e preciso di Pinato. E se al 23° più che di un intervento miracoloso del portiere è Candellone a sbagliare la mira, poi Pizzignacco si trasforma in Superman nel finale di tempo, quando al 32° nega la gioia a Deli e poi al 41° sulla conclusione a botta sicura di Dubicas. i ramarri si innervosiscono e nella ripresa al 74esimo cadono. Burrai perde palla, la difesa è mal posizionata ed Orazio appoggia in rete l'1-0. La reazione del Pordenone non tarda ad arrivare, ma solo l'81esimo c'è la chance migliore per il pareggio. Di testa ci arriva Candellone, ma è ancora Pizzignacco a salvare il successo dei suoi, che chiudono in 10 e sorpassano la squadra di Di Carlo in classifica. Continua invece lo psicodramma della Triestina, la quarta sconfitta consecutiva in piena zona retrocessione. Ad Alessandria contro la Juventus Under 23 finisce 1-0 per i bianconeri. Dopo un primo tempo dove di calcio se ne vede pochino, la squadra di Pavanel nella ripresa prende in mano il pallino del gioco. In contropiede fallisce con Sabbione, fuori ruolo, l'1-0. Poi invece lo subisce con una serie di errori difensivi che portano al gol, evitabilissimo, del numero 10 Compagnon al 64esimo. La Juve rimane in 10 per l'espulsione di Riccio, gli alabardati pressano ma con Ganza al 71esimo, palo a porta spalancata, e con Minesso al 79esimo, che calcia sulla luna un rigore in movimento, non trovano il pari. Nel finale, rosso anche per Sabbione per doppia ammonizione. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il basket a due maschile, la sconfitta della Gesteco Cividale a Pistoia ha chiuso un fine settimana nel complesso deficitario per le nostre squadre di vertice. I Ducali hanno perso 80-61. È durata a metà gara la corsa della squadra di Pillastrini, arrivata all'intervallo con un ritardo di sole 3 lunghezze. Poi un terzo quarto nel quale i toscani hanno allungato senza incontrare praticamente resistenza e mettendo in mostra un incontenibile Varnado, autore di 24 punti. Nella Gesteco Pepper ne ha firmati 15. In classifica i friulani restano a quota 4, comandano Forlì e Centoli, uniche a punteggio pieno. Nel prossimo turno la Gesteco ospiterà la Fortitudo Bologna, mentre l'APU Old Oil West giocherà a Rimini. E in Serie A la Pallacanestro Trieste sarà a Napoli in graduatoria e ultima da sola, ancora senza vittorie. Pallavolo a due femminile, successo della CDA Talmassons nel derby con Martignacco che apriva il campionato. Sul campo di Latisana è finita 3-0 con tre set molto combattuti. Appena una settimana fa l'esito era stato opposto nella finale di Supercoppa. Ora il canottaggio, ieri a Grado la 13ª edizione della Vogada Longa, sentiamo com'è andata. 54 barche con 156 atleti in partenza dalla storica sede Ausonia e poi via a sfilare per 18 chilometri lungo la litoranea veneta, traguardando l'isola di Barbana fino a Primero e ritorno. A prendere la testa i giovani della Canottieri Trieste con l'elegante Iole a 8 in legno del 1975 e impeccabile prova di stile per i vigili del fuoco Ravalico Trieste con l'8 da competizione. Spettacolare la bissona della Canottieri Padova, ambasciatrice della Vogalla Veneta. L'Austria, il Ruder Club Mondsee con giga 2 e a 4 d'acqua dolce, bordi ribassati, e le pagaie non si fanno intimorire, sfidano i remi lunghi in un duello tutto in casa tra il giga 4 misto Ausonia San Giorgio e il K4 Ausonia. Da Roma anche il Circolo Sportivo Rai e quest'anno grande partecipazione femminile. Giulia Della Zonca, ex campionessa italiana con i Vigili del Fuoco Trieste. Una volta eravamo molto poche, invece adesso vedo tante squadre femminili, tanti 8 femminili anche da noi in golf, che è una cosa straordinaria, e tutte insieme ci treniamo una con l'altra, e anche se ognuna poi ha i suoi problemi, la sua vita, i suoi impegni, riusciamo a creare dei momenti per tenersi in forma, gareggiare, essere comunque competitivi, è una cosa molto bella secondo me. La Vogada Longa non è competitiva, ma i ragazzi della Canottieri Trieste non sanno trattenere l'entusiasmo e tagliano il traguardo in 1 ora e 13 minuti. Secondo il 4 Compullino Muggia, terzo l'8 Vigili del Fuoco. Exploit del K4 Ausonia, quarto assoluto e primo dei kayak, ma i veri protagonisti di questa edizione sono i giovani dell'Ausonia, piccole pagaie sulle orme dei grandi campioni gradesi. Il presidente Andrea Tessarin. Sicuramente i risultati internazionali ottenuti dalle nostre atlete negli ultimi anni hanno portato comunque una nuova vitalità. A livello giovanile siamo ripartiti con un bel gruppo di circa 25 ragazzi dai 9 ai 12 anni che si ripagano più di ogni medaglia perché tengono viva la società. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di Nordic Walking con la prova conclusiva dei campionati italiani che si è svolta a Sgonico sul Carso Triestino. Circa 300 i partecipanti per questa specialità che vede i praticanti in aumento. È uno sport dove vincere è importante, ma conta di più farlo con stile. Il Nordic Walking, la disciplina in cui si marcia con le bacchette, è sempre più diffuso e arriva anche in Friuli Venezia Giulia per la prima volta con una prova di campionato ufficiale. All'aerocampo di Sgonico si sono dati appuntamento domenica mattina in 300 da tutta Italia con varie ambizioni. Ma vincere io personalmente no, però ci piace partecipare perché è un bel gruppo ed è un bel sport. Diverse le categorie, alle 9:30 i 5.000 metri senior e master, 2 ore dopo la prova di Nordic Walking Style, decima e ultima tappa del campionato italiano. Qui non conta arrivare primi, ma conta che la tecnica sia corretta. Bisogna badare alla postura, è vietato correre e serve muovere i gomiti nel modo giusto. A vigilare comunque ci sono i giudici dislocati lungo il percorso. Gianfranco Cinelle, master trainer della scuola italiana di Nordic Walking. Molto semplicemente abbiamo diviso il corpo dell'atleta in 3 parti, per ogni parte, la parte alta, la parte centrale e la parte bassa, abbiamo dei punteggi in base alla tecnica che viene richiesta. Non ci sono penalità, salvo se viene sbagliata completamente la tecnica, viene dato 0. Una giornata di festa e di sport con i suoi vincitori, Pallir Race 5000, Gino Torres del gruppo Alpini di Vicenza e la campionessa Paola Vicenzi della scuola di Nordic Walking, mentre nello style si è imposto, tra gli altri, Bruno Vittori, allenatore di Trieste Atletica. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 7:49, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani, oggi in edicola. L'apertura del Messaggero Veneto è per i numeri in crescita della campagna vaccinale anti-Covid in regione di quarta dose, passata da 700 a 1800 prenotazioni al giorno. Spazio poi a un'intervista al segretario nazionale CISL Sbarra in merito all'incontro di oggi in regione di cui vi abbiamo dato conto. Nell'interno l'approvazione del bilancio del servizio sanitario regionale in cui aumentano i costi per erogare visite ed esami e diminuiscono le uscite per la farmaceutica convenzionata. Una fotonotizia di calcio su entrambe le edizioni è dedicata alla sconfitta dell'Udinese. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto nell'apertura delle pagine interne di cronaca informa sul termine del restauro della palazzina che ospitava il comando della caserma Osoppo. Restauro incluso nella riqualificazione dell'ex area militare di via Brigata Re. Spazio poi all'omelia dell'arcivescovo Mazzoccato di ieri alla messa delle 17 al santuario della Beata Vergine delle Grazie, con un richiamo al compito educativo delle scuole da difendere, secondo Mazzoccato, da teorie sull'identità affettivo-sessuale che, a suo dire, non hanno a che vedere con l'educazione dei giovani. L'edizione di Pordenone del Messaggero apre la cronaca locale con il degrado dell'area di via Manzoni a Villanova in seguito al fallimento del supermercato. Il Piccolo apre l'edizione di Trieste con l'andamento del mercato immobiliare. Tante domande, poche case libere, affitti introvabili, vanno a ruba in città, i rari alloggi proposti in locazione. E vista la scarsità dell'offerta, scrive il Piccolo, i prezzi schizzano in alto. La politica domina comunque le prime pagine del quotidiano. In prima c'è la foto con il passaggio del testimone Draghi Meloni, mentre fra i primi interventi del nuovo esecutivo si fa strada quello contro il caro bollette con un pacchetto da 5 miliardi. Nella cronaca locale un servizio sul numero record degli accessi a Catinara e al Burlo Garofalo nel 2021. Torna ai domiciliari l'ex patron dell'Alma, Scavone, e davanti all'acquario, sulle rive, ecco la statua del pinguino Marco. Per il momento è un prototipo, si studia l'esatta collocazione. L'incendio al centro commerciale apre invece l'edizione Gorizia e Monfalcone. Paura fra i clienti, evacuate decine di persone a metà pomeriggio, scrive il Piccolo. Nella cronaca locale, le nuove dotazioni ad alta tecnologia all'ospedale San Giovanni di Dio. E ancora da Gorizia la notizia che sarà realizzata nel 2023 a Sant'Anna la prima oasi felina. Monfalcone intanto si prepara alla fiera di San Nicolò. Il quotidiano ci fa sapere che le bancarelle saranno 224. L'apertura del Gazzettino è per l'ultimo rapporto Caritas sulla mobilità sociale, in cui si evidenzia come le condizioni dei figli non siano migliorate rispetto a quelle dei genitori. Infatti il 26% dei nati dal 72 al 1986 non ha ancora raggiunto il reddito della famiglia di origine. L'edizione di Udine informa sui contributi regionali e comuni che accendono esenzioni per i proprietari di seconde case affittate con finalità turistica. Spazio poi all'assemblea regionale del PD di sabato a Palmanova, in cui si voterà per la segreteria regionale. Per il calcio, i risultati della Serie D, con la sconfitta in trasferta del Chiarlin Smuzzane contro Trento per 4-2, battuto anche il Tor Viscosa in casa dalla Luparense per 0-1. L'edizione di Pordenone nell'interno riporta il mancato arrivo dei ristori per i danni da maltempo del 2021 nella bassa pordenonese, ristori che erano stati promessi dalla giunta Fedriga. Per il calcio, spazio all'eccellenza con il pareggio in casa della San Vitese, che ha giocato contro SPAL Cordovado. C'è lo spazio ancora per qualche segnalazione di appuntamenti di oggi. Hangar Teatri inaugura a Trieste un nuovo ciclo di mostre d'arte con la collaborazione dell'associazione Daydreaming Project. Alle 19 sarà presentata in via Pecenco A volto scoperto, tra me e me, 10 secondi, una doppia esposizione fotografica tutta al femminile con le opere di Nadia N.F. Frasson e Roberta Pastore. Le due autrici sono accomunate dalla centralità della ricerca sulla centralità del corpo femminile. Metaverso, nuova frontiera per le aziende della moda, è l'evento che si terrà sia in presenza sia in digitale, dedicato a presentare le opportunità della nuova interazione di internet alle piccole e medie imprese, in particolare ai negozi e alle imprese del comparto moda. Al termine dell'incontro sarà predisposta una postazione che permetterà di fare dimostrazioni pratiche del funzionamento del metaverso a disposizione degli imprenditori. Appuntamento a Udine, alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, alle 11. Uno sguardo ai programmi radiofonici regionali. Dopo il GR1 delle 11 e l'edizione flash del nostro notiziario, il consueto programma in friulano, e poi Tra le parole e il cuore, che oggi ripercorrerà storie e attività del Gattile di Trieste. A seguire, La voce di Calliope, puntata dedicata alla friulana Leda Palma, attrice, poetessa e scrittrice. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Maria Spezia, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Laura Sarasini. Vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali, grazie per l'attenzione e a più tardi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.